E il pezzo che vi abbiamo appena fatto ascoltare si intitola Saturn Doggo ed è un singolo della band Supernovos, che è un quartetto strumentale attivo sulla scena bolognese e non, del quale abbiamo come ospite ai nostri microfoni il tastierista, che salutiamo. Ciao Filippo. Ciao, grazie e benvenuti agli ascoltatori. Grazie a te, come va? Tutto bene. Tutto bene. Voi? Anche noi. Tutto a posto. Che segno sei, per intenderci? Volevo chiederti. Il segno zodiacale? Sì, quello. Sono cuspide bilancia scorpione. Ah, ok. Ah, perché noi prima abbiamo letto l'oroscopo, quindi non so se ci hai ascoltato, spero di sì. No. Bene, allora dopo potrai andare a recuperare, insomma, l'oroscopo che ti spetta. Però adesso parliamo di musica e in particolare del progetto che condividi insieme agli altri tre membri della band, ovvero i Supernovos. Parlaci un po' di questa band, come nasce, la vostra formazione personale, come si sviluppa. Sì, allora noi nasciamo lontano, ormai nel 2012, come insieme di esperienze precedenti di ciascuno dei quattro membri del gruppo, di segno anche diverso per quanto riguarda la musica. Il chitarrista e il batterista suonavano già assieme, facevano punk rock, insomma cose del tutto diverse. E all'epoca avevamo un'altra bassista, Isabella, a cui poi è succeduta Erika. Erika Biolcati, che ha suonato nel disco, quindi il basso che sentite è quello di Erika Biolcati, per poi in realtà lasciare la band per, insomma, scelte personali, proprio, diciamo, subito dopo la registrazione di questo disco, e adesso suona con noi da oramai un annetto o giù di lì, Gaia Tassinari. Questa è un po' la storia della band. Noi, insomma, abbiamo pubblicato tre cose finora, di cui uno è un album di remix fatti da altri artisti del nostro primo album, che invece risale al 2015. Perfetto, io invece ti volevo chiedere dell'ultimo lavoro che avete fatto, uscito nel dicembre 2019, quindi pochissimo tempo fa, e l'ultimo album si chiama Natlos, se l'ho pronunciato bene, non lo so, te lo chiedo. Che tra l'altro, se non sbaglio, ha anche un significato come titolo, certo, proprio particolare. Ce ne parli un po'? È una parola tedesca che significa, un avverbio, senza soluzione di continuità, ecco. Questa espressione italiana ridotta in poche lettere in tedesco. E, dunque, questo album, come tutte le nostre cose, ha avuto una gestazione piuttosto lunga. Noi appunto scriviamo brani lunghi e anche ci mettiamo molto tempo a farli, a registrarli. E è stato registrato presso il Vacuum Studio di Bruno Germano, tecnico del suono e produttore molto valido e rinomato nell'ambiente bolognese, ed è stato prodotto anche grazie a una campagna di crowdfunding che abbiamo fatto tra i nostri, insomma, fan, amici e anche sconosciuti, che colgo l'occasione per ringraziare assolutamente, perché altrimenti non sarebbe stato possibile. Ma che dire, è un album di sei tracce, tutte strumentali, come avete già detto, come avete sentito col primo brano, che insomma è la nostra cifra stilistica principale. E la cosa interessante, se vogliamo, è che ci sono due coppie di tracce che sono parte 1 e parte 2, infatti condividono lo stesso titolo, dove in un caso sono letteralmente un unico pezzo suddiviso in due, mentre nell'altro caso sono, diciamo, due brani ispirati l'uno all'altro, ecco. Quindi anche questo si ricollega un po' al titolo, no? Natlos, senza soluzione di continuità. Sì. No, certo, prosegui. Non volevo interromperti. No, assolutamente. Diciamo che abbiamo avuto la fortuna di poterlo presentare dal vivo al Covo Club di Bologna, insomma venue storica della città, e è stata una serata assolutamente magica, è stato il 21 dicembre dell'anno scorso, e in seguito a questo abbiamo anche stretto un accordo con Luminol Records, che è un'etichetta con base a Milano, che si occupa di prog, però inteso in senso ampio, diciamo, non il prog delle origini, col quale infatti noi insomma non c'entriamo propriamente, ecco. Che quindi ecco, mi fa piacere ricordare l'aiuto di Luminol Records, di questa partnership che è nata da pochissimo tempo e che però insomma si dimostra assolutamente promettente. Certo, e a proposito di quello che stavi dicendo adesso, ovvero hai citato un genere musicale, il prog, come definireste il vostro sound, se volete definirlo? Ma allora, noi di solito diciamo che siamo a metà tra il post rock, ecco, che forse è un po' il riferimento un po' più vicino e anche un po' più noto, quindi spaziamo dal post rock alla psichedelia, con qualcosa insomma di ambient, qualcosa di electro, così, però diciamo che i riferimenti, ecco, sono questi, perché l'assenza di voce, ecco, è quello che ci caratterizza di più, che insomma, a volte fa anche un po' difficoltà ad alcuni ascoltatori a primo impatto, ma insomma speriamo di riuscire a convincere anche chi è abituato ad ascoltare cose cantate che non è l'unico modo di fare musica, ecco. Perfetto, e io ho una curiosità, come si intitolano i due pezzi di cui stavi parlando poco fa? Perché noi abbiamo in scaletta un pezzo che ha un titolo suppongo tedesco, perché sì. Wunderklifts, insomma, esatto, io sì, ho un tedesco veramente estremamente maccheronico, e noi abbiamo messo il parte 2, suppongo dunque che ci sia anche una parte 1, giusto? Sì, esatto, ecco, la parte 2 di Wunderklifts è in perfetta continuità con la parte 1. Se uno infatti ascolta il disco, non si rende conto del passaggio di traccia, certo. Diciamo, ecco. Certo, allora noi la facciamo ascoltare ai radioascoltatori e alle ascoltatrici, rimani con noi perché subito dopo il pezzo torneremo per proseguire la nostra chiacchierata. We'll be right back. rientriamo su questo pezzo che però è bellissimo e mi spiace molto interrompere. Siamo qua al telefono, ricordiamo se qualcuno si è sintonizzato ora, con Filippo dei Supernovos, e stiamo parlando un po' dell'ultimo album e della carriera anche di questa band. Io ti volevo chiedere, appunto, come abbiamo sentito in queste tracce, voi lavorate senza testi, quindi senza testi, sì, senza voce, diciamo, no? E sì, secondo te è più difficile far ascoltare o comunque diffondere una musica, appunto, che non ha dei testi ed è solamente strumentale? Ma guarda, ci sono pro e contro. Il pro più ovvio è che non ci sono limitazioni di comprensione linguistica, quindi insomma la musica strumentale può viaggiare in tutto il mondo senza questo tipo di handicap. Il contro è che insomma a volte può risultare un po' respingente per l'ascoltatore medio, ecco, okay, mettiamola così. Infatti voi poi nella descrizione dite che di Natlos in particolare dite si lavora incessantemente sull'equilibrio tra ricerca musicale e impatto immediato. L'impatto immediato è quello che si ha senza avere le parole, dici, solo attraverso la musica e tutti la capiscono. Sì, esattamente, ma poi insomma noi oltre al lavoro sul disco, che è stato comunque certosino, molto preciso, e per questo ringrazio anche Simone Padovan che ci ha aiutato non soltanto in studio ma anche nella fase di mix. Diciamo, oltre a questo, noi cerchiamo di unire una performance live molto, molto emozionale, molto carica, e ecco, diciamo che è più facile che che l'ascoltatore medio si convinca ad ascoltarci dopo averci visti live, perché l'impatto di solito è molto forte ed è quello che vogliamo provare a fare, e di solito ci riusciamo. Beh, questo è molto bello Filippo. E a proposito di live, volevamo chiederti se avete già in programma un tour, delle date. Al momento in realtà no, anche se insomma ci stiamo lavorando ovviamente sopra, però purtroppo non posso annunciare nessuna data. Va bene, non c'è nessun problema, manterremo il segreto. Quando sarà il momento giusto, poi magari ce le comunicherete e noi vi faremo un po' di pubblicità tra le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori. E allora Filippo, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato ai microfoni di Radio Città Fujiko su Fujiko Factory. Ci auguriamo anche di risentirci presto qui a Radio Città Fujiko. Okay? Assolutamente, grazie a voi e un saluto a tutte e tutti.